nessuno è giudice, nessuno sceglie mai il destino, nessuno mai ha le prove, nessuno mai sa, nessuno è complice. Nessuno sa dove si va, ma si continua a correre. Ed anche quando sembra inutile, quella pioggia cade giù.